46. Couscoussou. Il couscoussou è un piatto di origine araba che i discendenti di Mosè e di Giacobbe hanno, nelle loro peregrinazioni, portato in giro per il mondo, ma chissà quante e quali modificazioni avrà subite dal tempo e dal lungo cammino percorso. Ora è usato in Italia per minestra dagli israeliti, due dei quali ebbero la gentilezza di farmelo assaggiare e di farmi vedere come si manipola. Io poi l'ho rifatto nella mia cucina per prova, quindi della sua legittimità garantisco, ma non garantisco di farvelo ben capire, che non è impresa da pigliare a gabbo descriver bene questo grande intruglio, né da lingua che chiami mamma o babbo. Questa dose potrà bastare per 6 o 7 persone. Spicchio di petto di vitella, grammi 750. Vitella magra senza osso, grammi 150. Semolino di grana grossa, grammi 300. Un fegatino di pollo, un uovo sodo, un rosso d'uovo. Erbaggi di qualità diverse, come cipolla, cavolo verzotto, sedano, carota, spinaci, bietola o d'altro. Mettete il semolino in un vaso di terra piatto e molto largo, oppure in una teglia di rame stagnata. Conditelo con un pizzico di sale e una presa di pepe e, versandogli sopra a gocciolini per volta 2 dita di bicchiere scarse di acqua, macinatelo con la palma della mano per farlo divenir gonfio, granelloso e sciolto. Finita l'acqua, versategli sopra poco per volta una cucchiaiata d'olio e seguitate a manipolarlo nella stessa maniera, durando fra la prima e la seconda operazione più di mezz'ora. Condizionato il semolino in tal modo, mettetelo in una scodella da minestra e copritelo con un pannolino, il sopravanzo del quale, passandolo al di sotto, legherete stretto con uno spago. Mettete al fuoco lo spicchio di petto con 3 litri d'acqua per fare il brodo e dopo, schiumata la pentola, coprite nella bocca con la scodella già preparata in modo che il brodo resti a qualche distanza, ma badate che le bocche dei due vasi combacino insieme e non lasciano uscir fumo. Lasciato così il semolino per un'ora e un quarto, onde abbia il tempo di cuocere a vapore, aprite l'involto a mezza cottura per mescolarlo e poi rimettetelo come era prima. Tritate col coltello i 150 grammi di carne magra, unite alla medesima un pezzo di midolla di pane sminuzzata, conditela con sale e pepe, fatene tante polpettine grosse poco più di una nocciuola e friggetele nell'olio. Tritate alquanto gli erbaggi e mettete per prima la cipolla a soffriggere nell'olio e quando questa avrà preso colore, gittate giù gli altri, conditeli con sale e pepe, rimestate spesso e lasciate che ritirino l'acqua che fanno. Ridotti quasi all'asciutto, bagnateli con sugo di carne, oppure con brodo e sugo di pomodoro o conserva, per tirarli a cottura insieme col fegatino di pollo tagliato a pezzetti e con le polpettine. Levate il semolino dall'involto, mettetelo al fuoco in una cazzaruola e senza farlo bollire, scioglietegli dentro il rosso d'uovo, versate nel medesimo una parte del detto intingolo, mescolate e versatelo in un vassoio, ma quasi asciutto, onde presenti la colma, la quale fiorirete con l'uovo sodo tagliato a piccoli spicchi. Il resto dell'intingolo mescolatelo nel brodo della pentola e questo brodo mandatelo in tavola, diviso in tante tazze quanti sono i commensali. Accompagnate, si intende, dal vassoio del semolino, così ognuno tira giù nel suo piatto una porzione di semolino e gli beve dietro il brodo a cucchiaiate. Lo spicchio di petto si serve dopo per lesso. Fatta questa lunga descrizione, Sembra mi verrà spontaneo nel lettore il desiderio di due domande. Prima, perché tutto quell'olio è sempre olio per condimento? Seconda, il merito intrinseco di questo piatto merita poi l'impazzimento che esso richiede? La risposta alla prima domanda, trattandosi di una vivanda israelita, la dà il Deuteronomio, capitolo 14, verso 21. Tu non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. I meno scrupolosi, però, aggiungono un pizzico di parmigiano alle polpettine per renderle più saporite. Alla seconda posso rispondere io e dire che a parer mio non è piatto da fargli grandi feste, ma può piacere anche a chi non ha il palato avvezzo a tali vivande, massime se manipolato con attenzione.